Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Si stava meglio quando si stava peggio. Una frase odiosa che puzza di luogo comune lontano un miglio. Però, in una questione attualissima al giorno d'oggi, dobbiamo proprio dire che calza a pennello. La questione casa. Un tempo, infatti, pur nelle difficoltà, nel nostro Veneto contadino la casa non era più di tanto un problema, perché quando un figlio si sposava, al massimo si lavorava di malta e di cazzuola per poche settimane, allo scopo di ricavare un ulteriore stanzino lungo la casa padronale che si sviluppava in orizzontale, e la cucina, il salotto era un concetto per noi ancora alieno, era in comune per 20, anche 30 persone, e si mangiava a turno. Erano altri tempi. Adesso, chi vuole fondare una famiglia, vuole tagliare il cordone ombelicale dai suoi genitori, a stento riesce a trovare un monolocale in affitto. I prezzi salgono, le banche non concedono più credito e accendere un mutuo è un'impresa impossibile. A fronte della difficoltà di moltissimi nel trovare casa, emergono, con la violenza di uno schiaffo, i dati sconcertanti che ci ricordano come siano decine di migliaia le case sfitte e invendute nel Veneto. Case costruite e poi lasciate lì, preda di polvere, umidità e usura del tempo. E a rendere il tutto ancora più assurdo, si continua a costruire. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui la radice dell'universale destinazione dei beni della terra. Questa, in ragione della sua stessa fecondità e capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo, è il primo dono di Dio per il sostentamento della vita umana. La persona, infatti, non può fare a meno dei beni materiali che rispondono ai suoi bisogni primari e costituiscono la condizione basilare per la sua esistenza. Questi beni le sono assolutamente indispensabili per alimentarsi e crescere, per comunicare, per associarsi e per poter conseguire le più alte finalità a cui è chiamata. Il principio della destinazione universale dei beni della terra è alla base del diritto universale all'uso dei beni. Ogni uomo deve avere la possibilità di usufruire del benessere necessario al suo pieno sviluppo. Il principio dell'uso comune dei beni è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale e principio tipico della dottrina sociale cristiana. Uno di questi beni è la casa, e il fatto che ci siano migliaia di appartamenti invenduti e molte famiglie che non riescano a trovare un tetto sotto il quale vivere ci dimostra come questo principio sia tutto meno che applicato. È con noi Maurizio Trabuio, direttore della Fondazione La Casa. Grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie. Grazie a voi che mi avete chiamato. Ci può descrivere cos'è, cosa si propone e cosa fa la Fondazione La Casa? Fondazione La Casa è una fondazione di partecipazione che raccoglie e mette insieme soggetti privati e pubblici, enti del terzo settore, istituti religiosi, aziende, per provare a inventare o a costruire un nuovo modello di risposta al bisogno di casa, alle persone in disagio abitativo. Stiamo tentando di costruire un piccolo patrimonio immobiliare attraverso il quale sperimentare nuove modalità di offerta. Siccome in qualche modo abbiamo visto, tutti abbiamo sotto gli occhi, che il mercato immobiliare è inaccessibile per i livelli di reddito di gran parte delle persone e purtroppo l'edilizia pubblica non ha più le risorse e gli strumenti per rispondere alle persone che hanno bisogno di casa, è necessario trovare nuove soluzioni. Questo è Fondazione La Casa, è quella che si vuole chiamare o che noi chiamiamo la terza via, cioè una via innovativa, una nuova possibilità per rispondere a un bisogno che invece è antico e che ritorna di grande attualità proprio in questi mesi, in questo tempo in cui si vede che le risorse e le difficoltà delle persone, le risorse sono sempre di meno e le difficoltà delle persone purtroppo sono sempre più alte. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda il principio della destinazione universale dei beni di cui l'uomo, insomma, ha bisogno per il suo benessere necessario, per il suo pieno sviluppo. Uno di questi beni, come abbiamo detto, è la casa, però soprattutto i giovani trovano una difficoltà estrema nel trovarla, non solo per il valore economico in sé della casa, che nonostante la crisi comunque si assesta a valori, come ha detto lei, molto alti, ma anche perché non trovano nessuna banca disposta ad accendere loro un mutuo. E lei cosa ne pensa di questa problematica particolare, ovvero la difficoltà di accedere al credito? Beh, lei ha toccato due elementi drammatici di questo problema. Da una parte la crisi finanziaria, cioè la mancanza di disponibilità dei detentori della finanza di metterla a disposizione, e l'altra della categoria più svantaggiata in questo caso, che sono i giovani. E sono due elementi che rendono particolarmente drammatica questa situazione. La mancanza di denaro, purtroppo, da investire per l'acquisto della casa non solo rende difficile godere del bene necessario, ma in qualche modo stagna e fa fermare anche tutto un processo economico che per l'Italia era in gran parte centrato sul settore edilizio, e quando si è fermata l'edilizia abbiamo visto che cominciano poi a franare o a rendere incerta tutta la filiera economica, e quindi la disoccupazione, il lavoro, tutti i diversi settori che dipendono dall'edilizia si fermano. La difficoltà che trovano i giovani è drammatica proprio perché non si riesce a progettare un futuro, non si riesce a immaginare una vita in qualche modo soddisfacente, e questo rende sempre più complicato trovare soluzioni alle crisi. Se non c'è l'anelito e la speranza di un domani migliore, è difficile inventare anche soluzioni che poi si traducano in creazione di posti di lavoro, in economia o in una modalità di convivenza e di benessere nella città, nel territorio, nella comunità a cui si appartiene, che sia sensato. Quindi la mancanza di speranza per i giovani, che viene a mancare se non c'è un posto dove vivere in maniera dignitosa e a costi accessibili, di fatto è la fine della speranza, cioè l'impossibilità di pensare a un futuro, e questa è la cosa più grave. Ritorniamo. Cioè, sono due aspetti che sono legati, non ce n'è uno più grave, sono due parti dello stesso problema: la mancanza di futuro per la mancanza di casa, la mancanza di casa che ferma l'economia e che non genera e che blocca anche il futuro, pensare al futuro. Sì. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so, per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti. Il pomodoro se lo schiacci contro il muro sulla pancia, pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia, guancia. Una metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità. Ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finito? A dare l'acqua con il tubo alla tua tica, e vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo, succede che sono morto, vedi non esisto più. Comprendo il fuoco, non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti. Comprendo il fuoco, non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, è con noi in collegamento telefonico Maurizio Trabuio, direttore della Fondazione La Casa, e stiamo parlando dei problemi legati al disagio abitativo. Grazie per essere con noi ancora. Eccomi qua. Ecco, noi sappiamo che la Fondazione si occupa insomma di disagio abitativo, oltre chiaramente al problema dei giovani che non riescono a trovare una prima casa. Quali sono gli altri disagi legati al mondo abitativo, non solo per i giovani? Una delle questioni importantissime relative alla casa è la capacità di convivenza con i propri vicini e la capacità di stare in un territorio in maniera serena e armoniosa. L'accesso alla casa è uno dei passaggi necessari per costruire poi relazioni significative fra sé e il resto della comunità territoriale, e questo poi rende le città vivibili, le città accoglienti, le città dei posti dove si sta, si cresce e si vive come persone. Uno dei problemi oggi legato a questo è proprio la rottura della capacità di costruire relazioni, la rottura delle relazioni e la difficoltà di costruire nuove relazioni. Perché? Perché non ci riconosciamo come parte di una comunità. Oggi le città sono fatte di persone che provengono da tante parti diverse del mondo, con tante culture diverse, con tanti linguaggi. Noi stessi che viviamo e siamo in qualche modo nati in questo territorio, abbiamo cambiato la nostra modalità di vivere, perché una qualche capacità di vita comunitaria che una volta ci permeava, oggi non è più così, siamo molto più individualisti, molto più intolleranti, molto più sospettosi e di difficile comprensione rispetto agli altri. Questi elementi, le persone che vengono da altri posti e noi che siamo più individualisti, rendono difficile convivere. La convivenza nelle nostre case, nei nostri condomini, nei nostri quartieri è diventata più difficile, e questo è immediatamente legato alla disponibilità delle case, cioè ci sono anche meno case a disposizione delle persone perché si è rotto in qualche modo il patto di convivenza. Questo è un altro grave problema che non si è purtroppo in grado di distinguere dal problema abitativo, fanno parte della stessa questione, dello stesso problema. Eppure, nonostante, ecco, queste difficoltà, c'è anche, emerge, come ho detto prima, proprio come, con la violenza di uno schiaffo, insomma, i dati di alcune province venete, nelle quali sono diverse migliaia le case sfitte. Ci può dare un parere su questo? Beh, le case sfitte sono purtroppo il risultato di una mancata programmazione e di una incapacità politica di amministrare il territorio. Per troppi anni si è stata data la possibilità alle amministrazioni comunali di costruire il loro bilancio a partire dalla trasformazione del terreno in terreno edificabile. È stata usata la leva urbanistica come leva che teneva in piedi i bilanci e quindi i servizi e quindi le cose. Cioè, ed era inevitabile per le amministrazioni inventare e costruire senza inventare nuove opportunità di costruzione e permettere le costruzioni, senza che questa possibilità di cambiamento urbanistico fosse necessariamente legata alla dimensione di crescita demografica dei territori o alla riqualificazione dell'esistente o all'insieme, da una parte la riqualificazione dell'esistente vincolato alla demografia e vincolato alla capacità attrattiva dei luoghi, delle città e dei paesi. E quindi è inevitabile che le politiche attuate fino ad oggi abbiano generato volumi inutilizzati. C'è più volume della persone che possono utilizzarlo, ci sono più strade di quelle che sono necessarie e nonostante ciò sono intasate. Questa mancata programmazione genera questa difficoltà, risorse immobilizzate, le case costruite, e inutilizzate, vuote. Per rimettere in moto, rimettere in circuito queste risorse bisogna ripartire dai fondamenti, cioè ripensare alla demografia, cioè quante cose servono, alla riqualificazione urbanistica, che cosa bisogna buttare via e che cosa tenere, e bisogna ripensare alle forme delle città che vogliamo. Vogliamo piccoli paesini con grande distribuzione e grande consumo di suolo per distribuzione di spazi e vie di comunicazione, o vogliamo grandi agglomerati ordinati, razionali, eccetera? Bisogna ripensare a questi fondamenti per capire in che modo uscire da questa situazione. Ecco, lei mi ha già risposto alla prossima domanda che volevo farle, ovvero quali fossero le politiche sulla casa necessarie. Lei mi ha già risposto, insomma, ripensare, insomma, alla programmazione del territorio, vedere ciò di cui c'è bisogno e ripensare anche alla forma delle città. È chiaro che... aggiungerei, se lei mi permette, sì. Aggiungerei che è necessaria anche una grandissima attenzione alla questione delle modalità d'uso delle case, alla modalità di fruizione delle case. Le case non devono essere più viste come beni di investimento o oggetto di speculazione o di arricchimento. L'unica possibilità che abbiamo perché le politiche sulla casa nuove siano efficaci è che le case siano strumenti per la vita delle persone e siano quindi accessibili, e quindi la locazione assistita da servizi di accompagnamento sociale, da servizi di assistenza finanziaria, da servizi di facilitazione della vita condominiale, della vita di quartiere, da servizi di gestione degli spazi comuni e di servizi di accompagnamento alle persone che fanno fatica a stare nelle case. Cioè, non è più possibile che la politica sulla casa sia centrata sull'involucro immobiliare, sui mattoni, sulle finestre, sulle porte, ma la politica sulla casa deve essere pensata in funzione delle persone che andranno a utilizzare quegli involucri. Perfetto, da quello che capisco, insomma, la politica sulla casa partirà non solo da come le amministrazioni e i governi regoleranno queste normative, ma anche dalla responsabilità sociale dei singoli, che possono decidere se speculare o meno sulle case che magari possiedono o metterle a servizio del bene comune. La ringrazio infinitamente per essere intervenuto e grazie del tempo che ci ha concesso. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, gentilissimi ascoltatori. Ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul sito nostro di Blu Radio Veneto o potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento è la settimana prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti. Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.